infatti, parli di se stesso, parli, infatti. Abbiamo avuto la taglia, abbiamo già ammazzetto, dove abbiamo il sebbene. È tutta un'altra cosa, ma... La buia tagliata e ci vedo, che è stato qui, come è sicuro? Ma no, mi sa fa bene, vabbè, capito, spesso quando tanta paia molto zappare, che c'hanno la molto zappa, la volta al giorno, no, no. A chiamare magari la taglia, vuoi, ma... E la lascia tornare a crescere. Prima, a ultimo di aprile, stavolta, siete una poca rita, torna tagliata, poi passa la molto con il fattore, e fino a settembre la buia non la do più, capito? No, io quando vengo, che cresci, che è già un 15 centimetri, che come va a fare, passata, ma me la porto un paio di ore, giusta, andate così. In due me la posso giusta, sembra proprio un prato, perché tutto in piano, come si vede gli spuntoni della rocca, però è bello da vedersi. E vedi che è tutta pulita, tutto in girato uno, venuta, le abitate in gasotto e tutto pulito. Rimane tutto più bello quando è pulito, senza erba, lupi intorno agli alberi, tutti questi puliti. E tu vedi, comprate gli alberi delle olive, vedi puliti, ed è bello, e a voglia. Ci vuole.